Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Non so cosa dirvi davvero. 3 minuti alla nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi, oppure aprirci la strada lottando verso la luce. Ha ragione. Possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta. Questo formidabile discorso è tratto dal film Ogni maledetta domenica di Oliver Stone, pellicola in cui Al Pacino impersonifica un allenatore di football alle prese con una delle sfide più difficili della sua carriera. Oggi Destini Incrociati proverà a smaterializzarsi per varcare le soglie di luoghi solitamente inaccessibili e raccontare quello che di solito non viene detto. Esistono 2 posti che racchiudono tutti i segreti dei successi e dei trionfi sportivi. Uno è reale, tangibile, ed è costituito da uno spazio e 4 mura, è lo spogliatoio. Il secondo è metafisico, non si può vedere, ma è altrettanto fondamentale, è la mente di ogni singolo giocatore. Chiunque abbia praticato sport a qualsiasi livello sa che le vittorie dipendono da questi 2 fattori. E più il livello si alza, più lo spogliatoio e la mentalità diventano importanti, a parità dell'allenamento fisico. È in questi luoghi che si muove una delle figure centrali in ogni sport. L'allenatore. Essere allenatore è probabilmente uno dei lavori più complicati. Oltre a dipendere dai risultati, un coach si trova a dover gestire molti aspetti diversi: lo stato dei propri giocatori, gli umori dei tifosi, le direttive della società o delle federazioni, il proprio staff. E spesso, proprio a causa dei tanti fattori che incidono, un tecnico paga o guadagna più di quello che in realtà gli spetterebbe. Solitamente tra allenatori e giornalisti non scorre buon sangue. Ascoltiamo José Mourinho, uno che di stampa e comunicazione se ne intende. C'è una differenza molto grande fra il nostro lavoro e il vostro lavoro. È una differenza molto grande. Per voi, io ti dico una storia di un amico che veramente era un bravo giornalista. E era un bravo giornalista, non sto scherzando. Lui iniziava la cronaca della partita in suo computer, quando guardava la partita e gli sembrava che il risultato finale sarebbe 1. Se purtroppo negli ultimi 5 minuti della partita qualcuno segnava e il risultato cambiava, lui si arrabbiava tanto perché doveva iniziare una cronaca completamente diversa e rimaneva nello stadio mezz'ora più, un'ora più per fare una seconda cronaca. Il nostro lavoro è diverso, noi dobbiamo pensare sempre dopo e dopo e dopo. Ma no, la nostra vita è bellissima, è una vita per persone senza paura. Secondo l'allenatore portoghese, dunque, i tecnici non devono aver paura. La storia di oggi forse in questo senso rappresenta un'eccezione. È la storia di un giornalista con la passione della pallavolo e un fiuto particolare. E di un ragazzo argentino, amante della filosofia e determinato come pochi. Facciamo un salto oltreoceano. Siamo alla Plata in Argentina, a circa 60 km a sud-est della capitale Buenos Aires. Siamo a metà degli anni 70 e nel paese tira una brutta aria. C'è un clima di incertezza economica e politica. Nel 1973 torna al potere Juan Domingo Perón, leader incontrastato della scena politica argentina fin dagli anni 40. È la seconda volta che Perón sale al potere. La prima volta fu nel 1946, quando, forte del prestigio accumulato presso la classe dei lavoratori, grazie a una politica di concessioni e di redistribuzioni nei loro confronti, nel giro di pochi anni scalò i vertici del governo per arrivare, nonostante un tentativo di allontanamento e al successivo arresto, alla presidenza. Don't cry for me, Argentina. La figura di Perón si pone come garante dell'accordo tra le due classi più numerose, quella operaia e la borghesia nazionale. Al suo fianco l'indimenticata Eva Duarte de Perón, detta Evita, portabandiera dei poveri, i descamisados, fautrice dell'emancipazione delle donne e prima donna del generale. La figura di Evita contribuirà a rafforzare il già enorme consenso del marito, fino al suo tragico epilogo a soli 35 anni. Spetta alla vice segreteria di informazioni della Presidenza della Repubblica il penosissimo compito di informare la popolazione argentina che alle 20:25 è morta la signora Eva Perón, guida spirituale della nazione. Il mondo intero pianse per la sua morte. Il suo corpo imbalsamato rimase esposto al Ministero del Lavoro per 17 giorni. 2 milioni di persone, dopo ore di attesa, sfilarono di fronte al suo cadavere. Un fenomeno che, per la sua grandiosità, non aveva precedenti nella storia d'America e probabilmente del mondo. Con la morte di Evita, come avete sentito, per l'ex colonnello Perón inizia un periodo di declino che coinvolgerà lo stesso paese sudamericano. Si apre infatti una fase di forte violenza politica in Argentina, con la messa al bando del partito di maggioranza e le organizzazioni ad esso legate. Il clima politico diventa teso. Sono gli anni degli attentati della resistenza peronista, dei tentativi di golpe da parte dei settori più nazionalisti dell'esercito e di un'acuta instabilità politica. Quando ritorna al potere, nel 1973, il leader, a fianco di un piano economico restrittivo, con il congelamento dei salari e il controllo dei prezzi, cerca di sedare le mobilitazioni e rinforza l'apparato repressivo dello Stato. Perón muore l'anno successivo. Sarà la terza moglie, Isabella, ad assumerne la presidenza. Con grande dolore devo trasmettere al popolo la volontà di mantenere la calma e la non violenza. Assumo costituzionalmente la direzione del paese, chiedendo ad ogni singolo abitante la determinazione necessaria affinché mi aiutino a guidare il destino del paese fino a quel felice traguardo che Juan Domingo Perón sognò per ogni argentino. Para todos los argentinos. Dopo la morte di Perón, nel paese regna lo sgomento. Le organizzazioni militari e paramilitari ne approfittano per creare uno stato di terrore in cui gli oppositori del regime sono vittime di sequestri e omicidi. In Argentina adesso regna la paura. A La Plata c'è un ragazzo che frequenta l'università. Vuole laurearsi in filosofia. Gli mancano pochi esami. È Julio Velasco. Julio Velasco. Julio è un ragazzo molto impegnato. Oltre ai libri e allo studio, ha trovato lavoro come precettore, una figura che affianca e aiuta i professori universitari. La filosofia gli piace da matti, ma il libero pensiero fa pugni con l'aura di terrore che incombe sul paese. Mentre il giovane Julio Velasco studia capochino sui libri e la sua mente si apre grazie ai tanti pensatori in cui si imbatte, c'è una sensazione tutt'altro che piacevole che piano piano si fa largo dentro di lui. Comincia a sentire parlare di persone scomparse, persone attivamente impegnate e schierate, proprio come lui. Probabilmente è un po' confuso. Uomini e donne, per lo più in giovane età, che vengono rapiti, improvvisamente fatti scomparire e spesso mai più trovati. Questa storia non può essere vera, pensa. Ma comincia ad avvertire un po' di timore. Si chiede se possono arrivare a lui o alla gente che gli sta intorno. Velasco realizza presto che il regime ha occhi dappertutto. Lo sa perché alcuni dei suoi amici più cari sono scomparsi, proprio come aveva sentito dire. Alcuni addirittura sono stati uccisi. La paura si diffonde velocemente come un virus e Julio, come tutti, è spaventato. Sa che i militari sanno che lui è stato iscritto al Partito Comunista. Sa che conoscono le sue frequentazioni, oltre che le sue idee. Teme che sappiano anche di più. Per esempio, potrebbero sapere che uno dei ragazzi uccisi si è nascosto per 3 giorni a casa sua. Potrebbe succedere da un momento all'altro. Potrebbe toccare a lui questa volta. Bisogna fare qualcosa. Julio prende una decisione. Lo sport gli piace, soprattutto la pallavolo, e ancora di più gli piace l'idea di poter allenare una squadra. È già un po' che ha in mente questa soluzione, da quando tutti i precettori come lui sono stati sostituiti da uomini simpatizzanti del regime. Inoltre questo gli consentirà di allontanare l'attenzione del regime da lui. La sua prima squadra si chiama Estudiantes de la Plata. Mentre Julio affronta questa nuova avventura, intuisce quanto la filosofia e i pensieri che ha letto sui libri ben si adattino alla crescita degli atleti. In fondo anche la mente va allenata esattamente come il corpo, ed entrambe possono portare benefici. Si comunica alla popolazione che a partire da oggi il paese si trova sotto il controllo operativo della giunta militare. È il 24 marzo del 1976. La dittatura è uscita allo scoperto. Da questo giorno l'Argentina è ufficialmente sotto il controllo di Videla. Si pensa, nonostante tutto, che la situazione possa lievemente stabilizzarsi, ma il terrore invece che diminuire aumenta. Anche le paure di Julio aumentano e quello che lo circonda assume toni sempre più grotteschi. Uno dei suoi più cari amici, un anarchico, sparisce. Un altro viene ucciso proprio il giorno del golpe davanti alla moglie incinta. Persino il fratello più piccolo di Julio, Luis, viene rapito dai militari e nascosto per 2 mesi. Non c'è più tempo per rimanere a guardare. Velasco capisce che non è più possibile rimanere alla Plata e decide di trasferirsi. Andrà a Buenos Aires, dove è più facile confondersi tra la gente. La filosofia se la porterà dietro insieme al suo nuovo mestiere: fare l'allenatore. Siamo a Buenos Aires, a metà anni 70. Il giovane Julio Velasco si è lasciato alle spalle la sua città natale, La Plata, per cercare di sfuggire alle pressioni del regime. Il ragazzo si cala perfettamente nel nuovo ruolo. Allenare gli piace, gli consente di sperimentare metodi e studiare con approfondimento tutto ciò che riguarda la pallavolo. In più si rende conto di avere un'innata capacità oratoria. Non ci vuole molto perché i risultati arrivino. Nella capitale sudamericana il giovane tecnico fa esperienza con squadre della città come Banfield e Geva. Poi approda al Ferrocarril Oeste. Ed è proprio con quest'ultima squadra che si fa notare. Con lui alla guida, la squadra vince il titolo argentino per ben 4 volte. Il passo successivo per questo ambizioso e determinato studente è la nazionale. Velasco ci arriva alla fine del 1981 come allenatore in seconda. L'anno seguente, il 1982, i campionati del mondo di pallavolo si svolgono proprio in Argentina. La squadra sudamericana non è tra le favorite, eppure arriva terza, attirando su di sé gli interessi degli addetti ai lavori. Quando il percorso di vita subisce un'improvvisa deviazione, succede che lo si realizzi a posteriori e spesso viene facile legare a tutto ciò un episodio di una certa rilevanza. Questo vale anche per Julio Velasco. E raccontava spesso che la sua vita è cambiata anche grazie a un episodio, perché in una partita, credo dell'ultima del girone di qualificazione, la squadra era sotto 2-0 e una ricezione di un suo giocatore andò direttamente in campo avversario, credo fosse contro la Germania. Al tedesco serviva solo toccare il pallone e metterlo a terra, perché era un calcio di rigore a porta vuota. E il tedesco, schiacciando forte, toccò la rete, quindi commise fallo, per cui non chiuse la partita 3-0 come ormai era scontato, e da quell'errore iniziò un'altra partita che portò l'Argentina a vincere clamorosamente 3-2, e di fatto, superando poi quel turno, l'Argentina è andata avanti fino mettendosi in luce agli occhi di tutto il mondo pallavolistico e esportando i suoi gioielli. A raccontare questo episodio è una persona che presto Velasco conoscerà molto bene e che sarà la svolta del suo destino. È il secondo protagonista di oggi. Il suo nome è Giuseppe Cormio. Giuseppe Cormio. Giuseppe in quel periodo vive a Iesi, in provincia di Ancona, e lavora da giornalista come freelance. Si occupa di cronaca più spesso, ma anche di sport. C'è una disciplina in particolare che segue con passione, è la pallavolo. Un po' perché molte squadre della sua regione giocano nello stesso campionato e quindi per dovere. Un po' perché è lo sport che ha praticato fin da giovane, prima come giocatore e poi come allenatore di una squadra femminile. Tutte colorate, noccioline, gelati, gomma americana, bandierine, noi qui. Squadra nazionale, quei colori del cuore, Mimì, c'è Mimì. Agli inizi degli anni Ottanta, la pallavolo è ancora lontana dai livelli di professionismo di oggi. Probabilmente è più conosciuta per le gesta del cartone di cui avete appena sentito la sigla, Mimì Ayuara, che non per le partite di campionato. Ma è uno sport in evoluzione, a cui manca qualcosa, non tanto per gli atleti, ma per gli allenatori. E lo stesso Cormio a raccontarlo. Esistevano già giocatori praticamente a tempo pieno, esistevano meno allenatori a tempo pieno, anzi direi che nell'82 anche la squadra campione d'Italia, che era Parma, aveva un allenatore che si chiamava Piazza e che vendeva Cinar, questo faceva l'allenatore, quindi lo stesso Prandi, che era a Torino, era un professore di educazione fisica. Cormio, dopo l'esperienza come allenatore, viene chiamato dalla squadra della sua città, Iesi, per fare il dirigente. E quando la società raggiunge la Serie A2, Giuseppe capisce che per rimanere a determinati livelli, la tecnica e le qualità dei giocatori vanno seguite con costanza e dedizione. Serve un allenatore a tempo pieno, qualcuno che si dedichi solo ed esclusivamente all'allenamento e alla crescita del team. Il professionismo sta per sbarcare in Italia, custodito nella valigia di un giovane studente argentino. Tra poco, a Destini Incrociati. Destini incrociati. Siamo in Italia, precisamente a Iesi, in provincia di Ancona. La squadra di pallavolo della città è stata appena promossa in A2. Un giornalista, passato poi dalla parte dell'allenatore e infine a quella di dirigente, Giuseppe Cormio, è alla ricerca del nuovo allenatore. Nuovo in tutti i sensi. Il giovane team manager si mette subito alla ricerca. Un giorno, mentre è insieme alla squadra, viene avvicinato da un giocatore argentino, il palleggiatore Cantor, che ha un suggerimento. Parlando con lui, lui mi disse: guarda, in Argentina c'è un allenatore nella nazionale che di fatto è il vice allenatore, però il primo allenatore è un coreano molto anziano, in realtà il vero allenatore è lui. Si tratta proprio di lui, Julio Velasco. Sembra un suggerimento interessante. Cormio è convinto che ci sia bisogno di un cambio di mentalità, di una figura nuova che dia una sterzata al movimento. Ma è anche consapevole del rischio che potrebbe correre affidandosi a un emergente, per quanto bravo. Velasco è sì un tecnico, ma le vittorie nel campionato argentino e la bella avventura al mondiale come allenatore in seconda non convincono tutti. Ma Giuseppe si lascia guidare dal suo fiuto e dalla passione con cui ha sempre affrontato questo sport. E così contatta Velasco. Lo chiamai, chiaramente mi disse di sì, anche perché lui viveva anche una situazione personale, politica molto difficile, con un fratello che era andato via dall'Argentina, con una situazione insomma di pressione politica in quel momento nel suo paese molto forte, molto dura, per cui venne via dall'Argentina senza pensarci troppo e arrivò un 12 settembre dell'83, arrivò a Iesi con le sue basettone lunghe e questo aspetto molto sudamericano, poco europeo, per iniziare un'avventura. L'avventura quindi ha inizio. Velasco vola in Italia lasciandosi dietro ricordi e famiglia, carico di speranza e determinazione. L'Europa era sempre stato uno dei suoi traguardi professionali, sente che questa potrebbe essere la sua grande occasione. Nella voce di Cormio ha avvertito una scintilla. Ecco perché ha accettato subito, quella scintilla che potrebbe far decollare il suo futuro. Cormio, dal canto suo, è incuriosito da questo ragazzo e la prima impressione nel vederlo è quella che si porterà nella mente per tutta la vita. Ma io me lo ricordo arrivare, e la prima impressione, devo dire, come spesso capita in una società come la nostra, dove anche l'esteriorità ha un peso, poi forse io ero più giovane, quindi in quel momento questa sensazione era anche più forte. Il primo ricordo che ho, il flash che oggi mi torna in mente, che non toglierò mai dai miei occhi, è quello di quest'uomo vestito non proprio come noi, perché noi eravamo all'inizio degli anni Ottanta già schiavi di firme, di moda, lui appena arrivato non lo era, non pettinato come noi, perché aveva queste lunghe basette che arrivavano proprio lunghe, grandi, che noi avevamo tagliato qualche anno prima, e di un impaccio dovuto al fatto che anche lui per la prima volta, insomma, usciva per un lungo periodo dal suo paese, ed era un paese nel quale viveva un conflitto importante, perché da una parte aveva lottato per portare questa nazionale a un incredibile storico terzo posto, dall'altro lo storico terzo posto era stato, come spesso avviene nei regimi, anche se quella era una fase particolare dell'Argentina, però lo storico terzo posto era stato carpito, diciamo, dalla politica per farne un successo politico oltre che sportivo. Ma adesso per Velasco, senza il pensiero del regime che lo opprime, è arrivato il tempo di esprimere tutte le sue potenzialità, senza paura che i suoi successi vengano manipolati dal regime. La filosofia, il corpo, la mente sono i suoi veri alleati. Ora può prendere in mano il suo destino e guidarlo contro gli avversari. Per lui è iniziato un nuovo giorno. Non ci vuole molto per accorgersi dell'uragano con cui questo giovane con i basettoni, che viene dall'Argentina, investe la pallavolo. A cor mio balzano subito agli occhi l'innovazione di quell'allenatore un po' fuori moda nell'Italia degli anni Ottanta. Importò in Italia delle caratteristiche tecniche che non erano usuali dalle nostre parti, in relazione alla battuta in salto, alla velocità della palla, soprattutto alle posizioni in campo per difendere, e si mise subito in luce. L'anno dopo guadagnava 10 volte tanto da noi, e soprattutto scrivendo a riviste specializzate, intervenendo, cioè rendendosi protagonista, riuscì a salire agli onori della ribalta e a diventare un personaggio, pur di una piccola squadra di A2, molto conosciuto. Il primo anno Cormio e Velasco parlano spesso. La famiglia di Julio non lo ha ancora raggiunto e i due finiscono per condividere molti momenti. Si scambiano idee e opinioni, non solo sul mondo della pallavolo. No, il mio lavoro nella pallavolo era assolutamente un hobby. Cioè, io lo facevo ritagliando tempo dalla mia attività reale, che era quella di giornalista, quindi a me addirittura capitava di dover spostare turni, poi io seguivo lo sport, quindi per fortuna allora la pallavolo si giocava di sabato e io seguivo il calcio, per cui poi la domenica viaggiavo, andavo in giro per l'Italia a fare l'inviato, però la pallavolo si giocava di sabato, quindi la mia vita era tutto un viaggio, però non ho mai lasciato la squadra. Una volta, ecco, non riuscivo a conciliare le due cose. Sono mesi intensi. Cormio e Velasco si conoscono e si confrontano, un po' incuriositi e un po' legati da un rapporto professionale, che si mischia inevitabilmente a un percorso che finisce per andare ben oltre il contratto stipulato. Nel primo anno, prima ancora che arrivasse la sua famiglia, che arrivò a metà stagione dopo di lui, chiaramente abbiamo avuto modo anche di vivere insieme, perché io ero di qualche anno più giovane, ma comunque insomma condividevo tante cose che gli appartenevano, per cui abbiamo fatto una vita quasi da amici, io vivevo da solo, lui anche, e quindi siamo stati spessissimo insieme per notti intere a parlare di tutto, perché diciamo che poi la figura Velasco, come la storia ha dimostrato successivamente, la figura di un uomo colto, di un uomo che ha idee, di un uomo che ha opinioni riguardo tante cose, non quindi di una persona chiusa all'interno del proprio mestiere, del proprio lavoro, del proprio mondo. Cormio è come il custode di un segreto meraviglioso che ancora la maggior parte della gente non conosce. Le qualità di Julio sono lì davanti ai suoi occhi, che ora guardano in maniera diversa quel mondo che per tanti anni ha rincorso. Destini incrociati. Siamo a Jesi, provincia di Ancona, a metà anni Ottanta. Julio Velasco e Giuseppe Cormio sono insieme da un paio d'anni. Il primo è un allenatore in ascesa. La squadra della città, grazie a lui, raggiunge livelli mai toccati prima. Il secondo, che ha avuto l'audacia di credere nelle doti di Velasco portandolo in Italia, continua a scrivere e a seguire la sua amata pallavolo. È giunto il momento di dividersi. L'argentino viene contattato dalla Panini Modena in serie A1. È una grande occasione e non vuole mancarla. E così sarà, visto che con lui gli emiliani vinceranno 4 scudetti di fila. È in questo periodo che Velasco incontra alcuni dei giocatori insieme ai quali segnerà la storia del volley: Luca Cantagalli, Lorenzo Bernardi, Andrea Lucchetta, cui si aggiungeranno poi il palleggiatore Fabio Vullo e l'esperto Franco Bertoli. Saranno loro, insieme agli Zorzi, ai Gardini, ai Gianni, ai Tofoli e altri ancora, a segnare un'epoca della pallavolo. Dopo 4 scudetti, infatti, Velasco viene chiamato alla guida della nazionale italiana. Nasce la cosiddetta generazione di fenomeni. La prima vittoria arriva nell'89 agli europei di Svezia, battendo in finale proprio i padroni di casa. Poi è il turno del Giappone, dove gli azzurri vincono la World League battendo in finale gli olandesi. La diretta TV, seguita da molti appassionati, consacra una squadra che diventerà leggenda. L'immagine di Bernardi che firma il punto decisivo e Gardini che si arrampica sulla postazione dell'arbitro per urlare tutta la sua gioia fotografano la nascita di una macchina da trofei e tutta la sorpresa e la felicità che la circondano. E questo è solo l'inizio. Ma il vero capolavoro avviene 3 mesi dopo, nella Coppa del Mondo che si svolge in Brasile. Proprio contro i padroni di casa, gli azzurri, davanti a 27.000 spettatori stipati nel leggendario Maracanazinho, vincono per 3-2 la semifinale in una battaglia che ha fatto storia, per poi andare a vincere il trofeo in finale contro Cuba. Ancora 15-14, è tornato in battuta il capitano Andrea Lucchetta. Ricezione Iago, palla per destra in seconda linea, Lucchetta difende, del bagger, Topoli, il palleggiatore può solo appoggiare, Iago, proviamo col muro, resta in campo cubano, il pallone non cade, lottiamo ancora a rete, Lucchetta, Paolo, Bernardi, Bernardi, campioni del mondo, sul tetto del mondo, è il grande momento! Sul tetto del mondo! 16-14! 16-14! L'Italia comincia un periodo di dominio che la porterà a vincere altri trofei come la World League, altri europei e naturalmente altre coppe del mondo. Per creare un'epopea così irripetibile di vittorie non bastano buona volontà ed eloquenza. Ci vuole di più. Velasco affascina per il suo modo di parlare e per il suo carisma. Ma chi lo conosce bene sa che il suo segreto è un altro. Come ci spiega Andrea Anastasi, oggi allenatore e all'epoca uno dei tanti giocatori valorizzati dal tecnico. Secondo il punto di vista, la grande sua capacità era quella di saper allenare. Sai, a volte si tende a mitizzare le persone perché sono grandi allenatori dal punto di vista psicologico, dal punto di vista gestionale, ma è un minimizzare il lavoro dell'allenatore. L'allenatore deve saper allenare, deve sapere che ingredienti mettere all'interno dell'allenamento, deve sapere che corde tirare in una chitarra, per intenderci. Ecco, lui sapeva nel corso delle sedute quotidiane di allenamento, nel corso delle partite, cosa fare dal punto di vista pratico, concreto, non solo dal punto di vista psicologico, perché sarebbe banale, riduttiva la cosa, perché io so che la gente è appassionata di questo aspetto di Giulio, ma io credo che lui sia stato veramente un rivoluzionario in palestra. Lui è stato un grande allenatore, una grande persona con una grandissima conoscenza della preparazione fisica, è riuscito a interpretare quindi la squadra in modo magnifico, e quindi io sono rimasto sempre affascinato da questo aspetto. Durante gli anni 90 risplendono i nomi dei protagonisti che tutto il mondo sportivo ci invidia. Velasco e la Nazionale Azzurra segnano un'epoca. Solo l'Olimpiade, che diventerà una magnifica ossessione, sfugge a questo gruppo straordinario. Poi cosa chiedi perdono quando sbaglio io? Che cosa c'entri tu? Vorrei soltanto un po' di tenerezza, magari solo una carezza, e ti costa, lo so, lo so. Generazione di fenomeni, siamo noi. Generazione di fenomeni, ma come mai? Alla fine degli anni 90 tutti vogliono Julio Velasco, quel ragazzo un po' impacciato con i basettoni che divideva le sue notti tra studi e chiacchierate con l'inseparabile Cormio. Ora è un personaggio pubblico e le TV e le aziende fanno a pugni pur di averlo come ospite, e lui sfoggia tutta la sua eloquenza. Perché molte volte, questo è un problema che ancora devo risolvere in qualche modo nella mia squadra attuale, l'attaccante schiaccia fuori perché la palla non era alzata bene. E allora cosa dice? Che nel gergo vuol dire la voglio un po' più alta e più vicina alla rete. Il palleggiatore allora, e questo è il gioco di squadra, o meglio, non gioco di squadra, il palleggiatore si gira e il ricevitore dice: ragazzi, voglio la palla qua, perché se voi non ricevete bene che io ho la palla qua e devo correre a prenderla, io non posso essere preciso e non se la do come vuole lui. Per cui lui schiaccia fuori perché io non se la do come vuole lui, ma io non le do come vuole lui quando voi ricevete male. A quel punto i ricevitori si girano a trovare su chi scaricare, ma i ricevitori ricevono la battuta avversaria, per cui non possono dire all'avversario batte facile, così io ricevo bene, lì finisce la catena. Allora la nuova forma, perché io ovviamente questo ho detto una regola molto semplice, ho detto gli schiacciatori non parlano dell'alzata, la risolvono. Velasco è libero di poter esprimere tutto il suo credo a un pubblico che pende dalle sue labbra. Sono lontani i giorni di La Plata, quando tra un filosofo e l'altro Julio cercava di formare la sua mente marcato stretto da un regime che con metodi brutali cercava di ostacolare qualsiasi pensiero che non fosse favorevole alla dittatura. La pallavolo nel frattempo incorpora tutti i benefici portati dall'argentino e diventa uno sport professionistico a tutto tondo. I giocatori che hanno fatto la storia insieme a lui diventano delle celebrità. Lorenzo Bernardi, qualche anno dopo, viene proclamato giocatore del secolo. Velasco lascia la nazionale nel 1997 dopo una serie interminabile di vittorie. Davanti a lui si spalancano migliaia di possibilità. Tutti sono disposti a fare follie. Lui sceglie la nazionale femminile italiana, una scelta controcorrente. E così continuerà a fare negli anni seguenti fino ad oggi, andando ad allenare la nazionale iraniana. A dimostrazione del fatto che lo sport è innanzitutto una sfida. Una sfida che Giulio Cesare ha saputo cogliere da subito, da quando ha messo piede in palestra, e che ha sempre interpretato a modo suo. Io credo che l'eccellenza non è mai una persona. L'eccellenza è un processo e tutte le persone, anche quelle che hanno vinto di più, hanno avuto processi vincenti e processi in cui non hanno vinto. Il valore dei giovani, dei giocatori, delle persone sta anche in come hanno vinto e come hanno perso. Se quando vincono credono di aver trovato la verità, con maiuscola, e se quando perdono non darlo la colpa a nessuno, se no semplicemente si preparano per vincere ancora. Anche per Cormio, che ormai si è separato dall'amico, ma che continua a seguirne le gesta, è tempo di cambiamenti. Dopo qualche anno in cui continua la sua vita da dirigente giornalista, si appassiona al beach volley e contribuisce a sdoganare questa disciplina anche in Italia. Anni dopo arriverà una chiamata che metterà fine al suo infinito palleggio tra la rete e la macchina per scrivere. È successo che nella fine dell'89, inizio del 90, io avevo iniziato ad occuparmi di un'altra attività che poi è stata importante nella mia vita, cioè avevo importato dagli Stati Uniti il beach volley, quindi avevo iniziato ad organizzare i primi tornei e circuiti di beach volley in Italia. Nell'89 organizzai il primo campionato del mondo di beach volley proprio a Jesi. E quindi è una cosa che è andata avanti fino al 2003. Arrivò una telefonata proprio di Prandi, che in quel periodo avevo conosciuto, che mi propose di andare a lavorare però a tempo pieno a Padova, dove c'era una delle prime 4-5 squadre italiane di pallavolo, e io accettai. Cormio è attualmente dirigente della Trentino Volley SPA e quando, come in questi casi, gli si chiede di ripensare a quell'incontro che gli ha cambiato la vita e per il quale lui è stato a sua volta un cambiamento, lui volentieri risponde, mettendoci dentro tutta la passione che quel giovane argentino ha contribuito ad accrescere. Quell'Ulio Velasco che un bel giorno di settembre arrivò in Italia per buttare la paura al di là della rete. Ho vinto e ha perso come tutti quelli che fanno sport. Credo che uno dei grandi insegnamenti dello sport per i giovani, per i bambini, ma anche per gli adulti, è proprio che insegna a vincere e a perdere, perché nessuno riesce a vincere sempre e bisogna fare il modo che nessuno perda sempre nemmeno. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini Incrociati è anche un libro. Altri destini si incroceranno domani alle 15 qui su Radio 24.